Buonasera, è giunta l'ora di ringraziare Walter per la consueta pazienza, ringraziare voi tutti per l'attenzione, rinnovarvi l'appuntamento per martedì prossimo e auspicare con buone probabilità di riuscita che Carlo sia di nuovo con noi. Un ringraziamento particolare per una bella e simpatica lettera a parte di Filippo Franceschi. Grazie a tutti, buonasera.